a che scopo? Mi dovrei conservare. Mi sento viaggiatore. Mi sento di passaggio. Sparite tutti. Vi prego. Scusate tanto. Ma sparite tutti. Scusa, lo so che è esagerato, le mie romantiche idee, il mio passato. La mia rabbia, la mia indole, io sono la mia bocca, le mie labbra e chi le tocca, e quando sono te, la tua voce e il tuo respiro, sono innamorato. Io sono innamorato, sparite. E ormai non serve niente, alcuna ragione, si serve.